edizione. Altra notizia della notte: la polizia ha caricato a manganellate ieri sera a Montreal un migliaio di manifestanti che hanno protestato mentre proprio si svolgeva il Gran Premio del Canada, del quale abbiamo parlato poco fa durante il giornale radio. Ebbene, sono stati caricati a manganellate perché alcuni di loro avevano fracassato a sassate le vetrine di due banche. Questo il quadro dal Canada. Mentre a proposito di direzione, abbiamo parlato di quelle francesi poco fa, ci sono gli exit poll per le amministrative anche in Romania, e a quanto pare ha vinto il centro-sinistra. Vedremo se ci saranno aggiornamenti anche in particolare soprattutto sulle elezioni francesi, insomma dati anche un po' più certi. Sono le 6:16, la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Veniamo dunque a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, quotidiani che hanno, bisogna dire, aperture piuttosto varie, almeno per quanto riguarda i principali giornali naturalmente, e come dire, anche dal lato dei giornali politici ci sono parecchie differenze. Di certo in primo piano dappertutto troviamo la partita dell'Italia, Bell'Italia titola la Gazzetta dello Sport, con un titolo colorato con il tricolore. Gli azzurri si riscattano e domano le Furie Rosse, è il titolo del Corriere della Sera, che addirittura decide di metterlo in apertura, cioè il titolo che trovate più in alto, anche se il titolo forte, quello centrale, è dedicato all'Euro e alla Spagna, lo vedremo tra un attimo. Repubblica: l'Italia si scopre bella, fermata la Spagna, Napolitano abbraccia Buffon e dice bravissimi. Anche il Messaggero tiene in apertura la partita. Europei: l'Italia mette paura alla Spagna e bentornata nazionale di Vincenzo Cerracchio, è il commento. La Spagna e la Stampa invece a centropagina: esce Balotelli e l'Italia spaventa la Spagna, una foto di un abbraccio tra Gigi Buffon e Giorgio Napolitano, con alle spalle un Cesare Prandelli sorridente. Questo è il quadro per quanto riguarda la nazionale, ma come si diceva è forte l'attenzione ovviamente dedicata al salvataggio della Spagna. Dunque iniziamo dal Corriere della Sera, il cui titolo è "Il conto per salvare l'euro". All'Italia: i paesi in difficoltà costeranno almeno 48 miliardi. L'aiuto europeo alle banche spagnole in crisi, scrive il Corriere, un nuovo impegno per tutti i paesi dell'Eurozona, che peserà tuttavia anche sui bilanci italiani. Finora le cifre sono state sempre in salita, dai 3,9 miliardi del 2010, che è lo 0,3% del PIL. Nel 2012 siamo arrivati a 29 miliardi e mezzo, in tutto oltre 48 miliardi di euro, ma la somma rischia di aumentare ancora, quindi un'altra forma di preoccupazione, se vogliamo, per i nostri conti pubblici. Il commento di prima pagina è firma di Alberto Quadrio Curzio ed è "Chi deve temere il contagio?". C'è naturalmente al centro delle vicende di queste ore, come era presumibile, ancora l'eco della decisione del Presidente del Consiglio, Mario Monti, che come sapete ha scelto venerdì il nuovo presidente della RAI, è Anna Maria Tarantola, una scelta se vogliamo anche inaspettata per i partiti, e anche indicato il direttore generale nella persona di Gubitosi. Maria Teresa Meli scrive che si apre un caso sulle nomine RAI, ora il rischio paralisi, c'è pressing su Bersani, tra l'altro c'è questa proposta di Casini alla quale i partiti per il momento, gli altri partiti hanno detto no, no che probabilmente rimarrà, che è quella di far nominare anche il resto del consiglio d'amministrazione della RAI all'esecutivo. Sulle nomine RAI, scrive la Meli, si apre un caso da molti risvolti politici, dubbi del premier e nel PD sulla linea del segretario Bersani, non indicheremo nessuno, serve la riforma della governance. C'è un titolo anche dedicato alla Francia, le urne aiutano Hollande, il primo turno alla sinistra e si evita la cosiddetta coabitazione, ossia un presidente di sinistra o di centrosinistra e un Parlamento invece di destra. Editoriale di prima pagina è invece è anche questo dedicato ai partiti al governo, giochi pericolosi e calcoli miopi, a firma di Michele Salvati. In prima il Corriere della Sera tiene anche le vicende nigeriane, Domeniche di Sangue, il dramma dei cristiani. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. La Repubblica che apre su Madrid, aiuti a Madrid, contagio evitato, poi vi ricordiamo che approfondiremo più avanti la questione dei mercati, come stanno andando, che cosa ci si attende per la giornata, e rifaremo anche un attimo il punto perché tutto si è svolto nel fine settimana. Il G7 promuove il piano europeo, Monti alla Merkel, poco tempo, serve la svolta, così Repubblica. Bernardo Valli firma un'analisi, l'arma dell'Eliseo contro i no tedeschi. E il retroscena di Francesco Bei sul timore dei leader, nessuno è al sicuro. Da segnalare a centropagina, oltre naturalmente alla foto che riguarda gli europei, che riguarda gli azzurri, il Quirinale accelera riforme in arrivo. Partito Democratico e UDC sulla RAI, il governo scelga anche il consiglio di amministrazione. Questo per quanto riguarda la Repubblica, però da questo quotidiano dobbiamo segnalarvi un'altra cosa importante. Perché? Perché c'è il Presidente del Consiglio, Mario Monti, che scrive proprio alla Repubblica, rispondendo ad un articolo apparso nel numero di domenica, nel numero di ieri, a firma di Eugenio Scalfari, il fondatore del giornale, che appunto firma ogni domenica un lungo articolo. Monti si riferisce in particolare alle accuse di non aver fatto lo spoil system e quindi di aver escluso dalle strutture quegli uomini che erano o che vengono considerati di provata fede lettiana, ossia vicini a Gianni Letta, l'ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio, o di fede tremontiana, appunto, quindi dell'ex ministro dell'economia. E dice lo spoil system, insomma, non è questo il modo di farlo, dice Monti, e in più segnala il fatto che deve prendere le migliori forze da questa che ha sempre chiamato strana maggioranza che lo sostiene. Il Messaggero è, come si diceva, ha un'apertura sugli europei, che l'Italia mette paura alla Spagna, Madrid alla prova dei mercati, ansia per borsa e spread, Ren dall'Europa un chiaro messaggio, anche qua un titolo sulla Francia. A centropagina una grande foto dedicata, forse tra i quotidiani che gli dedica più spazio, alla Nigeria, kamikaze in chiesa, strage di cristiani, e di taglio basso un pezzo a firma di Mario Aiello dedicato alla politica e ai temi della cosiddetta casta. Chiude il ristorante della Camera, tutti al self service ma con le ostriche, scrive Aiello. Tutti in fila al self service Montecitorio per 12 euro e con il piatto in mano, appunto, e addio ai pasti serviti in guanti bianchi nel ristorante della Camera, quel luogo mitico della politica apparecchiata a tavola da cui ci si alzava con la pancia piena e talvolta anche con un accordo tra partiti sullo stomaco. La Stampa, apertura, sviluppo, si cercano 100 milioni. Forse un intervento sulle assicurazioni straniere, Monti accelera sui risparmi, quindi mancano questi 100 milioni all'appello per poter portare in porto il decreto sviluppo. Tra i tagli alle spese segnala Francesco Grignetti, sempre sulla Stampa, basta stazioni costose dei carabinieri, meno elicotteri e corazzieri a cavallo. E c'è un'apertura interessante su quello che vi dicevamo poco fa, ossia Casini che dice, insomma, facciamo sì che sia lo stesso Monti a nominare anche i consiglieri d'amministrazione della RAI e non solo il presidente e il direttore generale. Ebbene, c'è Beppe Fioroni del Partito Democratico che dice dia Monti i nomi dei consiglieri. C'è, come si diceva sulla nazionale, questa bella foto dell'abbraccio tra Buffon e Napolitano, bella per l'abbraccio, insomma, naturalmente. E di taglio basso troviamo un titolo un po' diverso sulla Francia: regge il partito di Sarko, domenica i ballottaggi, ma il titolo è sinistra in testa, sfonda Le Pen. Questo per quanto riguarda la stampa. C'è ovviamente anche spazio al salvataggio delle banche spagnole, come era prevedibile. Ci segnala un'altra storia di calcio, naturalmente, giornale piemontese La Stampa. Miracolo Pro Vercelli torna in B dopo 64 anni. Il Sole 24 Ore, il numero del lunedì, come sapete. Si parla in apertura delle società dei comuni, quindi le municipalizzate in genere, insomma, di qualsiasi natura siano. Per le società dei comuni un debito da 34 miliardi in 3 anni, rosso su del 12%, mentre il fatturato resta fermo. Queste per le partecipate, che ci segnala il Sole 24 Ore, sono 4.942. E il valore della loro produzione è 25 miliardi, con un costo del personale al 31,96%, nel settore dei trasporti al 54,5%. C'è un titolo anche sul servizio che avete sentito poco fa nel giornale radio. Le imprese, ci sono sempre più chiusure, nonostante la crisi regge il trend di nuove attività. A maggio un ulteriore peggioramento, cessazioni record in Veneto. Segnalare importante sul fronte fiscale, in 2 mesi sono state presentate 1.000 istanze per la mediazione tributaria. Ebbene, il fisco punta ad evitare oltre 110.000 cause grazie appunto alla mediazione tributaria. Ci sono altre novità fiscali che riguardano la cedolare affitti, o meglio alcune spiegazioni, come le opzioni possibili, sia alla scelta retroattiva, ci informa il Sole 24 Ore. E bello quello che ci racconta, bello, insomma, si fa per dire, quello che ci racconta Marco Biscella sul Sole 24 Ore. Ci segnala i problemi di eccedenze nella cosiddetta filiera alimentare: dai campi alla tavola si spreca un quintale di cibo a testa. Da segnalare sui temi europei anche un editoriale a firma di Carlo Bastasin: la roadmap della Germania da sola non basta a salvare l'euro. Andiamo a chiudere questa breve rassegna stampa con un altro paio di quotidiani, in particolare direi 2 quotidiani politici, per vedere come sono le scelte di apertura del Giornale e dell'Unità. La beffa dei professori è il titolo del Giornale, o meglio il titolo no, quello, scusate, è il cosiddetto occhiello. Il titolo è: si vergognano dell'IMU. Il ministro dell'interno Cancellieri rinnega la tassa, l'abbiamo trovata, ma allora perché il governo non la toglie? Il PDL prepara il documento sulla dismissione dei beni di Stato, vale 400 miliardi. Anche qua si parla di Europa, naturalmente, degli europei. Bell'Italia ha sfiorato l'impresa, la Spagna non ci batte mai. A proposito di tasse, c'è un commento di Renato Brunetta: dossier, l'errore dei tecnici, più tassano e meno incassano. L'Unità, l'apertura è dedicata alla Francia. In Francia rivince la sinistra. Legislative, secondo gli exit poll, socialisti e verdi avrebbero la maggioranza all'Assemblea Nazionale, un successo per Hollande che evita la coabitazione. Per quanto riguarda la politica, Bersani ricorda Berlinguer: ora riscossa morale. E infine, invece, sulla RAI, quasi un gioco di parole quello scelto dall'Unità: il PDL minaccia, niente RAI senza lei, riferendosi al direttore generale dell'azienda, l'attuale direttore generale dell'azienda. Chiudiamo qua questa breve rassegna stampa, ci ritroviamo tra un attimo con le notizie in breve. Prima edizione. Le 6:36 minuti e 9 secondi, solo il tempo di lanciare Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. 25 ottobre 2011. Nello Spezzino e nella Lunigiana cadono in 6 ore 542 mm di pioggia. C'è la piena dei fiumi Vara e Magra e molti paesi vengono invasi da acqua e fango. 7 mesi dopo, com'è la situazione? Sentiamo Cristina Carpinelli. Una montagna di detriti che si è staccata. C'è stata una bomba atomica d'acqua. Dicono 530 mm. È stata una cosa incredibile, perché abbiamo visto una cosa che è stata veramente inaccettabile. È il 25 ottobre 2011. In 6 ore cade su Lunigiana, entro Terra Ligure e Cinque Terre, la pioggia di un mese. Pioggia che causa la piena dei fiumi Vara e Magra. È un attimo e va per aria un intero territorio. I centri più colpiti sono quelli di Borghetto di Vara, con 7 vittime, Aulla, dove moriranno 2 persone, in provincia di Massa Carrara, Brugnato, Bonassola, Levanto, Monte Rosso al Mare e Vernazza saranno devastati dalle frane e dal fango. Da quei giorni di fine ottobre ad oggi è stato fatto tantissimo, ma per molti, soprattutto per i paesi dell'entroterra, è ancora lontana la strada della normalità. Partiamo dalle località più conosciute. A Monte Rosso, ad esempio, qual è la situazione? Secondo la gente del posto, sta saltando un equilibrio fondamentale tra il parco e il paese. Problemi, è venuto fuori di tutto questa alluvione, sono state fatte le peggio porcate che si potevano fare. Il parco nazionale è andato allo sfascio. Cinque Terre, io lavoro per il Parco Nazionale, la mia attività è chiusa. Sta andando completamente alla deriva, siamo al terzo commissariamento. La pioggia, la piena, assieme alle frane, ha fatto saltare i sentieri del parco, ma per ora di rimetterli in piedi non se ne parla. La situazione più difficile è nell'entroterra. A Beverino, ad esempio, gli abitanti si sono praticamente inventati una strada per raggiungere il paese, una strada che ha 2 guadi da attraversare. Perché le strade provinciali sono ancora inagibili, come ci spiega un assessore del comune. Che abbiamo ancora delle strade provinciali che sono chiuse, mentre invece quelle comunali, anche con passaggi alternati, però più o meno le abbiamo aperte tutte. E quindi cosa c'è su queste strade provinciali? Ancora fango? Ci sarebbe da spostare? No, perché sono crollati, ad esempio, uno c'è una frana, una che è invece quella più grande e importante, sono 2 ponti che non sono ancora stati messi. Cioè, si arriva al paese da un'altra parte che abbiamo aperto noi, però la strada provinciale è ancora chiusa. Probabilmente verrà aperta tra un mese, forse anche meno, però è ancora così. Ponti crollati e quindi il paese di Memola. Il paese di Memola che è stato raggiunto con una strada alternativa. Ho capito, quindi comunque con un disagio abbastanza forte. Altro che. Perché com'è questa strada? Niente, questa qua praticamente abbiamo fatto 2 guadi, si può immaginare, insomma, è sterrato con 2 guadi tutte le volte che piove, insomma. E continueremo a parlarne alle 13.30 nella versione lunga di Italia in controluce. Sono le 6:40 minuti, dunque facciamo il punto su come stanno andando i mercati in reazione anche al Via Libera, al piano di salvataggio delle banche spagnole. Valeria De Rosa, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Questa mattina i mercati sono, diciamo, contenti di questa decisione, finalmente una decisione preventiva da parte dell'Europa, quindi l'apertura di credito da 100 miliardi per la ricapitalizzazione delle banche spagnole trova consenso sui mercati. L'apertura dei listini asiatici è stata tutta con il segno più, addirittura Hong Kong in apertura segnava un più 2,5%, Tokyo in apertura più 1,8%, in questo momento Tokyo guadagna quasi 2 punti percentuali, anche la borsa di Mumbai in apertura segnava un più 1% e anche l'euro si sta rafforzando sul dollaro, 1,26 il cambio circa in questo momento, quindi diciamo i mercati applaudono a questa decisione. Benissimo Valeria, allora vogliamo, dato che è arrivato tutto nel fine settimana, riassumere molto brevemente che cosa è successo. penso che la Spagna si è decisa a chiedere aiuto per la ricapitalizzazione dei propri istituti di credito, una crisi che covava da qualche mese ormai per quanto riguarda Madrid, poi l'emergenza era scattata quando Bankia aveva chiesto al governo 19 miliardi di aiuti oltre ai 4,5 già stanziati. L'Eurogruppo in videoconferenza ha deciso per l'apertura di credito da 100 miliardi appunto, che potrebbero anche non essere tutti necessari, perché poi la Spagna ha anche chiesto ad alcune società, ha commissionato anche dei report per quel che riguarda il fabbisogno delle proprie banche, quindi staremo a vedere al 21 giugno quanti soldi saranno necessari per la ricapitalizzazione delle banche spagnole. Rajoy, il presidente Rajoy, ci ha tenuto a sottolineare che questo non si tratta in questo caso di un salvataggio, ma di un prestito a condizioni vantaggiose, e la differenza rispetto agli altri casi, quindi alla Grecia ma anche all'Irlanda e al Portogallo, è che in questo caso l'Europa chiede a Madrid come unica condizione il risanamento del settore bancario e finanziario, quindi non ci saranno misure di austerità per tutta la società ma solo per questo settore specifico. Grazie dunque a Valeria De Rosa per questi aggiornamenti. Noi adesso cambiamo argomento e dalla Spagna passiamo all'Italia, o meglio ad Italia-Spagna, con Dario Ceccarelli per commentare un po' questa partita di ieri. Dario, buongiorno. Buongiorno Simone, sono qui senza voce, ho fatto il tifo così tanto, ma perché comunque no, è mal tempo di mal di gola di stagione, ma ci è piaciuta questa nazionale, ci è piaciuta perché così, chiaramente aveva davanti la Spagna, i campioni del mondo, però ha mantenuto il campo con dignità, è passata in vantaggio in un momento non facile della gara. Forse ci rimane un peccato, ecco, nel senso che per come si era messa la partita, tutto sommato, gestendola con un po' più di maturità e convinzione, forse al gol col gol di Natale si poteva anche portare a casa la partita, però è un bel passo avanti nell'autostima, diciamo. Sì, sicuramente. E si parla molto di Balotelli, sì. Un po' opaco. Sì, no, più che opaco, è molto incerto nella vita. Sì. Direi. Al nono del secondo tempo, quella sua azione, che tra l'altro si era procurato da solo, è arrivato davanti al portiere con quella lentezza esasperante, senza decidere che cosa fare, se passarla oppure tirare in porta. Non so, rappresenta quello che è simbolicamente Balotelli, quell'incertezza se sarà un grande campione, se lo è, se non lo è, e vedremo. Lì ha fatto un'ingenuità che per un giocatore del suo talento è inspiegabile, però non lo so, si vede che si è bloccato, forse ha bisogno di qualcosa, forse è anche giovane ed è anche l'esordio all'europeo tutto sommato, no? Ecco, sì, esatto, quindi un po' di comprensione. Comunque direi che siamo partiti col piede giusto, perché c'è una bella convinzione e determinazione. Il mio timore adesso è che tutta l'adrenalina messa in questa partita magari cali nella seconda, abbiamo nel nostro girone c'è la Croazia, l'Irlanda, vabbè, abbiamo visto che non è granché, però insomma bisogna stare molto attenti. Grazie al nostro Dario Ceccarelli, che lasciamo al lavoro dei giornali radio. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede su strade e autostrade, ci ritroviamo subito dopo e parliamo di terremoto. Prima edizione. Come si diceva, andiamo a parlare di terremoto dunque. Solo prove orali per gli studenti dei paesi colpiti dal sisma, lo ha stabilito il Ministero dell'Istruzione. Questo era stato il nostro suggerimento anche prima dell'ordinanza, commenta da Mirandola, uno dei comuni della Bassa Modenese più colpiti dal terremoto, il responsabile comunale per l'istruzione, Carla Franca. L'ha raggiunta la nostra Raffaella Calandra. Noi già prima dell'ordinanza, viste le condizioni che non ci avrebbero comunque consentito di fare delle prove scritte, anche per l'inevitabile panico che si può creare con delle scosse che sono continue nel nostro territorio, noi ci eravamo già orientati, e era anche stato un pochettino il suggerimento che le nostre direzioni scolastiche avevano dato all'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, ci eravamo già orientati e già preparati per l'organizzazione di esami solo orali. Li terremo tutti nella scuola media, l'unica scuola che abbiamo completamente agibile, una scuola media nuova, antisismica, e li terremo tutti al piano terra, con la possibilità anche per i ragazzi che dovessero avere paura comunque a stare in un locale chiuso, di avere l'accesso dall'esterno. Quindi eventualmente ci potrebbe essere la possibilità anche che l'esame per intero venga svolto all'esterno, quindi all'aperto. Sarà prevalentemente così, e c'è questa possibilità da parte più che altro della commissione di collegarsi online con il ministero, con l'ufficio scolastico regionale, attraverso un computer che è collegato nell'aula direttamente di fronte alla capannina. Siete riusciti a recuperare anche tutti, non so, i registri scolastici, tutta la documentazione che è necessaria per sostenere gli esami? Noi abbiamo già fatto tutti gli scrutini. Abbiamo già fatto i primi esami degli istituti professionali, vale a dire quelli che devono sostenere una prova dopo il terzo anno delle scuole superiori. Quelli li abbiamo tenuti nelle tende mensa organizzate dalla Protezione Civile, scrutini che sono stati consentiti dal fatto che i vigili del fuoco su prenotazione sono entrati di solito col dirigente scolastico a prendere all'interno delle scuole tutto il materiale necessario per fare gli scrutini. Avete avuto difficoltà nel contattare, nel far arrivare le vostre comunicazioni anche a tutti gli studenti? Noi abbiamo proprio istituito una postazione all'interno della scuola media, con scritto informazioni scuola, e lì c'è personale non solo comunale come sono io, ma tutto il personale docente a turnazione, che dà tutte le informazioni relative alla scuola, a tutti gli ordini di scuola. Inoltre, per quelli che dovevano sostenere l'esame di Stato, è stato fondamentale mettere tutto sul sito delle singole scuole. E dunque questa era Carla Franca, responsabile comunale per l'istruzione del comune di Mirandola, e così siamo tornati sui temi del terremoto nell'intervista della nostra Raffaella Calandra. Notizia di poco fa che arriva dal Pakistan: una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi di un autobus, ci sono molti feriti e la zona è quella del Baluchistan. Ed è veramente tutto per Prima Edizione. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Diego Rovelli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Come sempre, ci ritroviamo tra poco con il giornale radio.